36. Durante la notte aveva nevicato, ma all'alba i fiocchi cominciavano a disfarsi. Una pioggia sottile e compatta come la foschia che aleggiava sul fiume. I volontari erano partiti in massa, diretti a Fornagara. Solo Kanatawakon era rimasto al fianco di Joseph. Quando raggiunsero Butler sul dorso del monte, un raggio di sole fiacco illuminò la valle, gli scheletri dei ciliegi, la lingua d'acqua che leccava le sponde. Le case parevano elementi del paesaggio, silenziose come rocce. Anche in un giorno come quello Cherry Valley non smentiva la sua bellezza. Smise di piovere, la nebbia risalì le colline per unirsi alle nubi. Gli uomini fremevano per attaccare. Walter Butler li trattenne per assicurarsi che la polvere fosse abbastanza asciutta. «Noi abbiamo i Tomahawk», disse Sayangarakta, e con un cenno d'intesa Butler lo lasciò partire. Joseph si accodò ai Seneca e li seguì tagli abeti, fino a un intrigo di rami e ginepro. Ma mentre quelli lottavano per aprirsi un varco, tornò indietro di mezzo miglio e ridiscese in un'altra direzione. I cani di Cherry Valley cominciarono ad abbaiare. Il signor Mitchell si svegliò quando fuori brillavano ancora le stelle. Ruppe un uovo in una tazza di rum, aggiunse il caffè nero, il burro e lo zucchero d'acero. Mentre beveva, lanciò un'occhiata alla moglie e ai bambini ancora avvolti dal sonno. Veniva giù neve fradicia e bisognava raccogliere l'ultimo taglio di legna prima che restasse sepolto in un bozzolo gelato. Uscì, slegò la cavezza del mulo e si avviò su per la collina. All'uscita del bosco Joseph vide le fattorie. I rumori del risveglio coprivano la distanza. Colpi d'ascia in una legnaia, voci, il richiamo delle vacche pronte alla mungitura. La residenza del giudice Wells era molto grande, una tenuta dalla parte opposta del paese. Iniziarono a correre, ma le zolle dei campi arati segavano il passo. I Seneca avevano attraversato la macchia e sciamavano lo scoperto come lupi, un branco di 300 guerrieri. Corsero più forte, caddero, si rialzarono con le ginocchia ferite. La signora Wells era stata ospite a Johnson Hall e aveva regalato a Molly uno scialle di lana mohair. Videro il branco raggiungere la prima fattoria. Un gruppo si fermò, gli altri proseguirono. Joseph indicò a Kanatawakon la casa successiva. Intanto anche i ranger entravano nel villaggio a passo di carica. Il signor Wells aveva comprato un cavallo dal vecchio Butler e bevuto il liquore che preparava sua moglie. Anche a Walter doveva stare a cuore la salvezza del giudice. Lungo la strada scorreva una fiumana di bestie, uomini e sangue. I guerrieri Seneca scalpavano i fuggiaschi da tergo senza smettere di correre. Un ingorgo di corpi si formò contro un cavallo rimasto zampe all'aria. Dal fiume giunsero le urla di chi aveva cercato scampo in acqua e adesso annegava nel gelo. Il signor Wells era appoggiato allo stipite, in ginocchio, le mani giunte sotto la bocca. In mezzo alla testa, l'osso bianco del cranio spuntava come una roccia da una palude nera. Un uomo si lanciò dalla finestra del primo piano, crollò sull'aia e prese a correre giù per la collina. «È il colonnello Holden! Non fatelo scappare!» La voce proruppe dalle scale. Joseph non fece in tempo a voltarsi che due guerrieri Seneca uscivano dalla casa, ribaltando il cadavere di Wells per gettarsi all'inseguimento. Il giovane Butler raggiunse la porta e sparò un paio di colpi, ma senza successo. Gridò a quelli di sopra di scendere subito e prepararsi all'attacco del forte. Poi notò l'espressione di Joseph e indicò il giudice riverso nella polvere. «Nascondeva un colonnello ribelle. Ha avuto quel che meritava». Joseph lo spinse di lato ed entrò nella casa. In anticamera c'era il corpo di un giovane, altri due nelle cucine. Un vecchio e una vecchia si abbracciavano accanto al camino, scalpati. Fuori il vento portava odore di carne bruciata e il fumo di decine di roghi. Walter Butler tentava di organizzare l'assedio del forte. Joseph guardò il giovane capitano sbracciarsi e sudare davanti all'indifferenza dei Seneca. Aveva creduto di usare i guerrieri per la propria vendetta e ora non sapeva come fermarli. Prima di mezzogiorno, il signor Mitchell tornò verso casa. Al diradarsi degli alberi scorse un fumo che non poteva venire dal camino. Si lanciò per la scarpata in un franare di sassi e radici. La piccola stalla era divorata dal fuoco, la casa era in fiamme, ma l'incendio non aveva ancora attaccato le travi portanti. La moglie e i figli erano sotto le coperte, come l'ultima volta che li aveva guardati. Alla vista dei crani, il vomito lo piegò in due. Mancava Eleanor, la figlia minore. Mitchell corse sull'aia, riempì i due secchi della cisterna e cominciò a gettare acqua sulle fiamme, dentro e fuori, mentre chiamava la figlia con tutta la voce che gli restava. Quando lo schiaffo dell'acqua si abbatté sulla credenza, vide una mano spuntare tra le schegge e raspare il pavimento. Facendo leva con un pezzo di trave, liberò la bambina da sotto il mobile, l'abbracciò, la condusse fuori per farle riempire i polmoni. Con le dita lavò via dalla faccia lacrime e fuliggine, spostò ciocche di capelli, le carezzò una guancia, incapace di parlare. Di nuovo la strinse a sé, come se non lo avesse mai fatto prima, e in quel momento li scorse. Erano spuntati dietro il costone, a un centinaio di yard, con addosso le giacche verdi della milizia lealista. Il signor Mitchell ringraziò il cielo che non fossero selvaggi e si disse che la cosa migliore era restare lì, senza tentare una fuga impossibile, alzare le mani e affidarsi a Dio. Sussurrò alla figlia di restare tranquilla. Joseph cercò la casa dei Mitchell, una famiglia modesta che aveva conosciuto anni prima. Spiò da una finestra e vide una sconosciuta seduta in terra a sgranare pannocchie. I due figli avevano la stessa età di Christine e di Isaac. Lei aiutava la madre, lui attizzava il fuoco sotto la pentola. «Cosa fate qui? Perché non scappate?» «Noi stiamo con il re», rispose la donna con voce tranquilla. Joseph spalancò gli occhi. «Nemmeno un re potrebbe salvarvi ora». «Ho sentito gridare il nome di Capo Brent. Se gli indiani sono con lui, non ci faranno del male». «Joseph Brent sono io, ma non ho potere su questi uomini». Si staccò dalla finestra e osservò la valle. Stormi di corvi planavano sui cadaveri. Vide Kanatawakon e lo richiamò con un grido. Con un pugno di polvere scura, bagnato di saliva, tracciò sulle guance della famiglia due segni verticali, attraversati da una croce sghemba, il marchio dei prigionieri di Thayendanegea. «Forse così sarete al sicuro», disse la donna, mentre affidava lei e i bambini a Kanatawakon perché li scortasse fino al fiume. Si allontanò e cercò ancora, finché non riconobbe una baracca. I fumi neri che si torcevano sopra il tetto gli dissero che era arrivato tardi. Entrò. La donna sembrava addormentata. I due figli erano sdraiati con lei. Il primo dei tre puntò il fucile addosso al signor Mitchell e gli intimò di non muoversi. Il secondo sollevò in alto una scure e l'abbatté sulla testa della bambina. La bocca non emise un grido. Il terzo disse «Rispondi, verme! È più brutto vivere così o morire come un cane?» Il signor Mitchell non disse nulla. Il primo dei tre gli aprì la gola con un coltello da caccia. I regger entrarono in casa per vedere se i selvaggi avevano lasciato qualcosa. Mentre si allontanava dalla casa, Joseph inciampò in una statua di carne. Il cadavere della bimba era stretto a quello del padre, come un diamante sulla sua montatura.